Oggi abbiamo con noi Alessi dell'Umbria. Fortunatamente, diversamente da altre occasioni di incontri con compagni non italiani, non ci sarà bisogno del traduttore perché parla l'italiano meglio di noi. E, tra l'altro, forse lo sapete, lui ha scritto un libro molto importante sulla tarantella, che è una cosa un po' particolare per, certo, un appassionato di musica, tanti rapporti con musicisti, eccetera, però non dei posti dove è nata e cresciuta questa cultura, e al di fuori degli ambienti accademici, dei ricercatori di etnomusicologia o di altre discipline. Affini. Il libro aspetta ancora un editore italiano, pur essendo stato molto apprezzato da chi l'ha letto in francese. E poi su di lui e soprattutto sul gruppo di amici e di compagni che hanno condiviso con lui esperienze di lotta, di resistenza, di sottrazione e quant'altro, si tornerà con maggiore profondità successivamente. Io qui voglio solo cogliere l'occasione per ricordare le settimane in cui si lavorava all'edizione italiana del testo di Andrea, che uscì per l'edizione 415 col titolo Medicina maledetta assassina. Quindi è un motivo particolarmente forte dal punto di vista affettivo per me essere qui stasera a presentare questo libro, che non consiste solo in una narrazione appassionata delle vicende di questa aggregazione, che poi Alessi magari potrà meglio descrivere, perché uno degli elementi di particolare interesse di questo testo è rappresentato proprio dal loro modo di trovarsi, di agire, di stare insieme nell'azione, ma rifuggendo dai meccanismi e dei sentieri predeterminati della militanza, dell'attivismo tradizionale e del racket soprattutto. Ci sono delle riflessioni molto interessanti sul racket in questo libro. Ecco, ma non è solo questo libro, quindi non è soltanto la narrazione di una vita avventurosa sulla linea dello scontro, ma è anche una descrizione del mutare delle società occidentali in Francia, ma non solo, perché caratteristica della loro aggregazione era di andare dove c'erano delle situazioni di conflitto, dove c'erano delle lotte, dove c'erano dei passaggi importanti nel divenire del capitale. Ad esempio, loro furono molto presenti in Inghilterra nei mesi della lotta di resistenza dei minatori inglesi, e sul secondo numero della rivista c'è una corrispondenza molto importante su quella situazione. E attraverso questa presa diretta, una descrizione, è un abbozzo di analisi delle trasformazioni produttive, dei caratteri di quella che in Italia viene detta dagli operaisti e post-operaisti la composizione di classe, le culture di fabbrica, le differenze che passano tra le diverse figure operaie, più o meno radicate nella cultura locale, nel territorio. Cioè, molto molto interessanti le parti sulle dismissioni della cantieristica francese e della siderurgia, e sul divenire dell'autonomia operaia, per come la si può intendere È un libro di non molte pagine, ma di tantissimi spunti. Scritto chiaro, non ci sono giri di parole, e in questo il rifiuto dell'accademismo che deriva poi dalla maniera in cui avete vissuto, perché si dice che uno o due di voi aveva forse partecipato, aveva messo piede in università il primo anno, poi non si era fatto più vedere, no? Però questo non ha mai significato un senso di minorità rispetto alla ricerca, rispetto al versante, al polo riflessivo, tant'è che la particolarità di questa aggregazione era non solo di fare delle cose forti con le banche e in altre situazioni, ma di scrivere anche delle cose importanti, insomma scrivere un trattato di varie centinaia di pagine sul millenarismo nel mentre si è in fuga non è una cosa che fanno tutti. Poi chiaramente a distanza di anni si può dire che questo testo risente di certi limiti perché non abbiamo letto questo, non abbiamo letto quest'altro, però insomma per dire della stranezza e della forza di questa vicenda, appunto si sta tra la capacità di cavare soldi alle banche, la capacità di sottrarsi all'apparato di controllo poliziesco, la capacità di mantenere dei legami di amicizia, di fraternità molto, molto forti e la capacità di confrontarsi coi piani alti della ricerca, della riflessione sul piano storico, antropologico, tant'è che poi, come viene spiegato nella parte finale del testo, l'orizzonte si apre fino a comprendere le questioni della pluralità di cosmogonie e di visioni del mondo. C'è una rottura forte del paradigma eurocentrico occidentale, anche questa volta operato a partire da incontri con queste esperienze altre del vivere, la storia, il rapporto con il passato e la lotta nel presente. Ecco, questo per accennare brevissimamente. Poi il Pepi parlerà di come è nato questo libro all'interno di una nuova collana di Tabor, Agire, la collana della Giduglia. E già solo le righe di presentazione di questa collana meritano, perché si è, a partire da un'esigenza di presentazione editoriale, ancora di nuovo dentro queste questioni di cos'è la storia, cosa ce ne facciamo, come si dà il nostro divenire, lo sviluppo della nostra parte. Basta. Allora, grazie Roby, intanto grazie a tutti e a tutte di Calusca, del Cox, dell'ospitalità, dell'invito. Quindi mi riallaccio subito all'ultima cosa che diceva Roby, appunto ha già detto molte cose del libro e l'ultima cosa che diceva appunto sulla collana. Noi come Tabor abbiamo pubblicato soprattutto nell'ultimo anno, ma non solo, ma in particolare nell'ultimo anno, in occasione del cinquecentenario della guerra dei contadini del 1525, l'abbiamo preso un po' a pretesto per pubblicare e ripubblicare diversi libretti, libri su questa questione. Quindi andare a vedere un po' la collana, si chiama Bundschuh, come la Lega dei contadini che all'inizio del Cinquecento si è opposta di fatto, per riassumere, alla nascita della modernità capitalista per come la conosciamo, in quel momento che nasce lo Stato-Nazione, l'economia capitalista, il colonialismo per come lo conosciamo oggi, quindi un po' tutti i nodi che ancora viviamo oggi nascono in quel momento lì, quindi era interessante a nostro avviso andare a riallacciarsi a coloro che alla nascita di questo percorso, di questa dinamica, hanno provato a resistere, a combattere contro questo. Tra questi libri dice L'incendio millenarista, che citava prima Roby, pubblicato proprio da Oscar Gaseiros, e qui c'è un po' questo collegamento anche con col gruppo Oscar Gaseiros, che già diceva appunto Roby hanno pubblicato, hanno trovato il tempo in tutto quello che facevano di fare questa ricerca. Questo è anche un aspetto interessante, uno dei vari nodi, il rapporto con la teoria, con il sapere, con la ricerca, per quanto appunto, come già si diceva, non fossero per nulla accademici o ricercatori appunto universitari o accademici in senso tradizionale, però l'aspetto proprio interessante è l'approccio con la teoria, con il sapere, cioè un uso concreto, collettivo, delle letture, cioè molti delle loro riviste, molti dei loro libri, compreso L'incendio millenarista, sono una raccolta di pensieri, di commenti sulla base di letture fatte individualmente o collettivamente, che poi venivano scambiate e discusse insieme, e da lì, in una sorta di percorso di crescita collettiva, nasceva anche l'esigenza di pubblicarle. Quindi qualcosa di molto diverso, no, da quello che può essere il percorso di un ricercatore individuale che fa il suo studio e quello, ma proprio una dimensione collettiva. Questo è uno dei nodi. Vabbè, comunque la collana Agire parte da un po' dal logo che abbiamo scelto, che è quello di una spirale, che così come tentativo, poi tutta l'arbitrarietà della cosa, però quello che un po' ci siamo detti, che la storia non è qualcosa di, non è una linea dritta, ormai penso sia abbastanza evidente a chiunque che non è una linea dritta verso il progresso, il miglioramento continuo, non è neanche però forse un cerchio come se la immaginavano le società premoderne, quindi un circolo in cui tutto ritorna sempre uguale a se stesso. Se c'è qualcosa di simile con cui possiamo raffigurare la storia, magari è qualcosa di più simile a una spirale, cioè una sorta di un insieme di cerchi, quindi con delle ricorrenze, delle invarianti che ritornano, ma sempre in modo diverso tra di loro. E questo è un po' il motivo per cui è interessante confrontarsi con i cicli di lotte, di esperienze che ci hanno preceduti, ed è un po' l'idea alla base di questa collana, appunto confrontarsi con esperienze di lotta più recenti. In questo caso il Bunchu è una collana che si riferisce a episodi di storia moderna medievale. Qui c'è un confronto più con esperienze di lotta più recenti, che chiamano in causa nodi di vita, di esperienze più vicine a noi, con l'idea di cercare di ricomporre quella rottura di passaggio di testimoni tra le generazioni. Questa è una cosa che ovviamente il potere cerca di fare in modo scientifico, sistematico, di rompere il passaggio di la continuità, il passaggio di testimoni, di racconti, di esperienza, di confronto tra le generazioni. Quindi questo libro, ancora di più questi incontri, l'idea di fare degli incontri con Alessi, è quello di confrontarsi su appunto ancora che cosa c'è ancora di attuale in quelle esperienze, che cosa ci possono insegnare, suggerire, e via dicendo. Poi ci sarebbero appunto tanti nodi, tanti spunti soprattutto, che in parte ha già detto Roby, in parte le dirà Alessi, e poi verranno fuori magari dalla discussione, dal dibattito. Ne cito uno, solo uno, che secondo me è molto importante, quello della, diciamo, della dialettica, dell'equilibrio, della dinamica tra spontaneità e organizzazione. Infatti secondo me la particolarità proprio di questo gruppo è stato il non essere dichiaratamente e volutamente un gruppo politico classico, quindi c'era proprio un rifiuto dei racket politici, anche extraparlamentari, dell'estrema sinistra e tutti i vari gruppuscoli trotskisti, maoisti, e via dicendo. Allo stesso tempo però non c'è un'idea di informalità totale, di spontaneismo, e anzi al contrario, uno degli aspetti particolari è che il gruppo nasce proprio con una sorta di giuramento, di patto, di complicità, quindi sedendosi intorno a un tavolo, decidendo non un programma, ma una sorta di patto comune, appunto di fraternità, di amicizia, che andava conservato negli anni. Quindi nasce in questo modo, in un modo se vogliamo molto formale, e allo stesso modo si scioglierà non per la repressione, non per così per inerzia, per fine, ma con una decisione collettiva pianificata. Era finita una fase, quindi c'è da passare alla successiva. Quindi proprio questo rapporto particolare tra spontaneità e organizzazione, secondo me, è uno degli aspetti più interessanti, in un periodo in cui, come dicono loro stessi, l'abbiamo riportato nella quarta di copertina, loro appunto si sono trovati, hanno deciso di serrare i ranghi proprio di fronte alla presa di coscienza di un momento storico in cui non c'erano più le condizioni o le prospettive rivoluzionarie degli anni passati. Si era all'inizio degli anni Ottanta, in un momento in cui diciamo con le prospettive, anche l'entusiasmo delle lotte operaie degli anni 60 e 70, ci sono molti libri che parlano appunto degli anni 60 e 70, il momento un po' trionfale anche sulle varie lotte operaie. Sugli anni 80, nel momento in cui appunto il deserto avanzava, c'è molto poco, e loro appunto si sono trovati insomma in maniera consapevole di fronte a anni o decenni in cui c'era da serrare i ranghi, bisognava organizzarsi se bisognava sopravvivere a questo deserto. Questo sia, credo, qualche cosa che, di cui l'attualità è abbastanza evidente. Insomma, penso che affrontiamo un periodo abbastanza simile, per quanto diverso, per cui è interessante confrontarci con questo. Bon, finisco, lascio la parola ad Alessi. Grazie. Va bene, grazie Daniele, grazie Roberto, grazie al Centro Sociale Calusca, grazie a voi di essere venuti. Quindi il gruppo Scangasero si è formato in 84 e si è sciolto più o meno alla fine di 92 e all'inizio di 93, è nato in un periodo veramente brutto. In Italia erano gli anni di piombo, però in Francia non era male, pure c'era François Mitterrand che era stato eletto in 81, e chiaramente dopo due anni di una politica socialdemocratica molto tiepida era passato al liberalismo totale. E era chiaro che tutta la onda di rivolta, di sovversione, di dissidenza sociale che avevamo vissuto negli anni 70 già era finita e che ci aspettavano tempi tosti. Quindi ci voleva fare un salto qualitativo rispetto a quello che avevamo vissuto negli anni 70. Cioè il gruppo si è formato con gente che già più o meno ci avevano 10 o più anni di esperienza e che venivamo di questa onda di ribellione un poco informale del dopo 68. Il 68 francese, che è stato il sciopero generale più importante che un paese industriale abbia conosciuto, che è stato pure un momento di incontro molto forte tra diverse componenti, sia della classe operaia, sia della gioventù emarginata, delinquenziale, con una contestazione molto forte delle istituzioni politiche e sindacali che avevano provato a schiacciare il movimento. Quindi in questa onda si è sviluppato tutto un periodo di dissidenza sociale fondato sul rifiuto del lavoro. Questa era una cosa abbastanza comune e che ha attraversato tutta la società francese degli anni 70. E noi facevamo parte di questo, con alcuni riferimenti teorici, chiaro, quelli dei situazionisti, dell'anarchismo, altre esperienze pure della subcultura popolare underground degli Stati Uniti e dell'Inghilterra, e quindi e poi con un riferimento pure molto forte con le lotte nelle carceri francesi, perché ovviamente molti di noi abbiamo fatto soggiorno lì, non come politici, come comuni. Quindi in questi anni 80 c'era, come si dice, cosa bascula? Un rovescio? Un rovesciamento di prospettiva totale. Già una prima cosa è che si vedeva che la centralità della classe operaia, che noi già stavamo criticando, stava, come dire, c'era una riorganizzazione completa del capitalismo industriale in Francia, in Inghilterra, anche si sapeva dell'Italia, specialmente quello che era successo in 80 alla Fiat a Torino, e si vedeva che questa classe operaia già era erogata, si dice, e quindi avevamo un poco partecipato a delle lotte, specialmente degli operai dell'acciaio. E per esempio, voglio dare un esempio che è stato molto forte: in 82 nel nord di Francia, vicino al Belgio, c'è stata una lotta forte degli operai di una fabbrica di acciaio che doveva chiudere, e vicino a questo paese stavano nello stesso tempo costruendo una centrale nucleare, e quindi i sindacati erano totalmente impotenti davanti a questo processo. Quindi gli operai si sono organizzati in un modo autonomo e hanno fatto alleanze con quelli che lottavano contro la costruzione della centrale nucleare, e chiamavano chi voleva venire l'ultimo sabato di ogni mese a fare scontri con la polizia, cioè non a fare una manifestazione, a bloccare la strada nazionale e a bloccare i celeri che facevano la protezione del cantiere. Era tutto un weekend di scontri con la polizia, venivano gente di Parigi, venivano gente del Belgio, e noi abbiamo partecipato a questo, e lì parecchi di quelli che si sono ritrovati dopo in Noscangasero si erano incontrati e conosciuti lì. Poi alcuni di noi avevamo avuto esperienze delle case occupate, io per esempio avevo partecipato all'occupazione di un palazzo nuovo a Parigi, che ha fatto scandalo all'epoca e poi che ha finito in situazione di scontri molto forti. E quindi c'erano questi gruppi un po', diciamo, affinitari, che si conoscevano, che si incontravano di qua, di là, che pure si scrivevano, avendo un po' di discussioni, diciamo, teoriche, pure confrontando un po' su concezione della lotta. E quindi a un momento questi gruppi si sono catalizzati nell'anno 84, e abbiamo deciso di formare un gruppo già di fare una rivista, perché scrivevamo delle cose che rimanevano in un modo confidenziale. A questa epoca non c'erano le reti sociali e non c'era niente spazio per pubblicare i nostri scritti, che erano anche molti eretici rispetto della doxa politica ufficiale delle organizzazioni. Quindi abbiamo deciso di creare un gruppo, di confrontare le nostre esperienze e anche di organizzarci proprio in un modo molto razionale per recuperare i soldi dove si trovavano, cioè nelle banche. Cose che tutti più o meno in un modo o un altro facevamo già negli anni 70. C'è chi faceva delle rapine di banca, c'è chi faceva furti di appartamenti, c'è chi faceva delle truffe agli assegni rubati. E quindi già avevamo un po' di modo di fare. E quindi il salto qualitativo era quello di già di avere nello stesso tempo un'attività di teorica pubblica con la rivista, di organizzarsi in un modo più efficace a livello della recuperazione del denaro. E quindi la prima riunione abbiamo scritto i statuti, abbiamo fatto dei statuti scritti che di due pagine, dove le obbligazioni reciproche tra di noi erano formalizzate. Un documento che abbiamo dovuto bruciare anni dopo, quando ci abbiamo avuto la polizia sulla schiena, però che era proprio una formalizzazione. Avevamo tutti pagato per sapere che l'informale alla fine è fonte di problemi, di confusione e di conflitti. Quindi abbiamo deciso in 84-85 di iniziare su delle basi chiare e tonde. E noi non ci consideravamo come un gruppo politico. Invece rifiutavamo totalmente la politica come attività specializzata, separata, in un tutta questa militanza con chi avevamo avuto a che fare negli anni 70. Molti di noi andavamo nelle manifestazioni per fare casino, alla fine attaccare la polizia, spaccare le vetrine e poi a volte avere scontri con i servizi d'ordine dei stalinisti o dei trotskisti. Quindi alcuni di noi avevano fatto parte dell'autonomia parigina negli anni 79-82, e che già aveva aperto un altro spazio. Poi c'era anche le cose dell'Italia che ci ispiravano molto. Penso specialmente perché siamo a Milano, sapevamo dei circoli della gioventù proletaria che organizzavano espropriazione, autoriduzione nei negozi del centro di Milano, nei supermercati. Questo ci piaceva molto, corrispondeva proprio alla nostra visione della lotta. Però se negli anni 70 quello che ci ispirava era l'Italia, e negli 80 era l'Inghilterra. L'Inghilterra, che era stato il paese che aveva visto nascere e crescere il capitalismo industriale per la prima volta, e che era proprio il laboratorio del liberalismo e della liquidazione del movimento operaio e della classe operaia con la politica di Margaret Thatcher. Io con alcuni amici che si sono ritrovati nello Scangassero, eravamo andati lì in 81, il bellissimo estate di 81, che aveva visto delle rivolte in tutti i rioni popolari dell'Inghilterra, di Londra fino a Manchester, a Liverpool, si pensa specialmente a Brixton, a Toxteth, a Liverpool, dove la gente aveva anche bruciato le banche. Quindi tutto questo poi è successo in 84, proprio il momento in cui abbiamo creato Scangaseros, lo sciopero dei minatori di carboni in Inghilterra, che è stato uno sciopero di un anno di 200.000 lavoratori contro la decisione di Thatcher di chiudere di finirla con l'industria del carbone. Nello stesso tempo avevano scoperto petrolio nel mare del nord. E se l'industria del petrolio permetteva di sfruttare una manodopera molto precaria, molto interimale, invece il carbone era una classe operaia molto compatta, con le sue tradizioni di lotti, di solidarietà molto forte, con un sentimento di appartenenza territoriale molto forte, e quindi nell'opzione ultraliberale di Thatcher e che era anche quella della sinistra in Francia a quel momento, era importante di finirla con questo, modello, e sviluppare invece il modello di cui l'industria del petrolio era il paragone. E quindi siamo stati lì, specialmente nel Yorkshire, che era il punto più forte, a incontrare, a andare in questi paesi dove tutte le famiglie avevano a che fare col carbone, a incontrare questi minatori che hanno tenuto un anno di sciopero, una cosa appena credibile oggi. E anche abbiamo convidato alcuni di loro a venire in Francia a parlare della lotta, e abbiamo anche pagato il biglietto di treno, di aereo, anche li abbiamo mandato a Barcellona a incontrare i portuali di Barcellona, che allora erano in lotta, in auto-organizzazione molto libertaria, con la tradizione proprio dell'anarchismo catalano. E poi, partendo di questo momento, infatti abbiamo avuto sempre come si dice, una casa a Londra, e c'è stato sempre fino all'inizio degli anni 90 uno, due o tre di noi a Londra a partecipare alle diverse situazioni di lotte che c'erano in Inghilterra. E quindi una parte importante della rivista nostra parlava delle lotte in Inghilterra. A noi quello che ci interessava molto in questa Inghilterra era il fatto che, siccome non c'era un partito stalinista forte come in Francia, c'era più autonomia locale nelle lotte e c'era meno pressione ideologica nelle lotte, sembrava più la lotta sociale che politica. Invece gli inglesi erano proprio ammirativi davanti alla Francia, che era più lotta politica che sociale, perché pensavano che la Francia era il paese della generalizzazione rivoluzionaria, mentre loro vedevano le lotte inglesi come più locali, localizzate. C'era un po' una discussione su questo con la gente che conoscevamo in Inghilterra. Però per quello della Francia, noi siamo stati in 84 all'ultima manifestazione a Parigi degli operai dell'acciaio, che davanti a altre misure di decisione di chiusura, e infatti è stato veramente i funerali della classe operaia. I sindacati francesi avevano riuscito a impedire che ci sia una nuova onda di sommossa come in 79. Poi si è trovato che, un po' per caso, ci siamo ritrovati anche nelle situazioni di lotte dei cantieri navali. E quindi, infatti, tutte le lotte operaie alle quali siamo stati un poco, ci siamo interessati, e anche con relazioni di amicizia forti che sono nate con alcuni di questi operai. Infatti era il momento in cui tutto questo stava sparendo, e quindi era un poco particolare di vedere un gruppo di gente organizzato sul rifiuto del lavoro, che alla fine potevano incontrare la classe operaia al momento in cui stava morendo. E per esempio abbiamo incontrato un certo James Schenkel, che era un operaio della fabbrica automobile Peugeot nell'est di Francia, e lui aveva partecipato al 68 lì. Questa fabbrica era particolare perché era l'ultima che è stata occupata in giugno 68, e l'unica situazione in cui la polizia ha sparato sulla gente. Due operai che difendevano la fabbrica contro l'espulsione erano stati uccisi a colpi di pistola, che era per la Francia era una cosa un po' eccezionale. Lo so che in Italia è più frequente, però... E questo James Schenkel aveva, come si dice, strappato la sua tessera del sindacato, che aveva calunniato gli operai che si erano difesi durante 2 giorni contro la polizia. E poi avevano creato il collettivo autonomo della Peugeot e lui alla fine in 79 era stato licenziato. E in 83 era venuto, non mi ricordo bene per qual canale, però era venuto a Parigi, qualcuno ce l'avevano fatto incontrare e avevamo fatto amicizia subito. E lui ci aveva raccontato un po' la sua vita di militanza, di 20 anni di militante operaio a Peugeot. E lui ci aveva scritto un manoscritto dove raccontava tutto questo e la sua critica della burocrazia sindacale, anche di tutti i gruppi politici che volevano recuperare la rivolta operaia, però non trovava a farlo pubblicare. E quindi noi l'abbiamo pubblicato, abbiamo fatto un lavoro editoriale con lui, faccio la maquette, fare stampare il libro con il denaro che veniva dalle banche, insomma. E lui gli piaceva molto incontrare noi, avevamo un punto di incontro nel centro di Parigi, una casa occupata da gennaio 83, che abbiamo occupato fino alla fine di 87, che era una casa molto grande di 7-8 stanze, proprio in un posto, un rione che era allora molto popolare nel centro proprio di Parigi, e che è stato, alcuni di noi vivevano lì, altri passavano, e molta gente che passava a Parigi veniva lì, per esempio questi minatori inglesi che abbiamo, che il comitato di sciopero del loro paese aveva mandato in Francia, erano venuti lì, avevamo contatti un po' dappertutto, anche con questi portuali di Barcellona, anche conoscevamo alcuni compagni polacchi della tendenza un po' radicale di Solidarnosc, e quindi tutta questa gente si incontrava lì, anche amici nostri, giovani immigrati della periferia di Parigi, gente che avevamo conosciuto al momento dei concerti Rock Against Police, che venivano lì, quindi c'era un poco, e il bello è che era un posto abbastanza discreto, non era una casa occupata con striccione, era una casa occupata molto discreto, il proprietario non aveva fatto niente. E quindi questo James Schenkel veniva lì e a lui piaceva molto scoprire altre forme di sedizione, di subversione, rubare le banche, occupare le case. E eravamo andati insieme a questa ultima manifestazione degli operai dell'acciaio. Noi avevamo preparato, ci eravamo preparati allo scontro, perché alcuni dell'acciaio si erano affrontati con la polizia 2 settimane prima lì nell'est di Francia, scontri duri, quindi avevamo preparato 2 macchine rubate con false targa di matricolazione, le cocktail Molotov nel cofano a 2 punti dove doveva passare la manifestazione, casomai scoppia la sommossa. E infatti non ha scoppiato, noi siamo andati all'inizio della manifestazione a parlare con gli operai di qua, di là, c'era molto rabbia, però i sindacati hanno riuscito a controllare, a fare un modo che non sia solo una passeggiata sindacale in Parigi. E mi ricordo ancora di James Schenkel che aveva fatto un discorso alla fine della manifestazione davanti a centinaia di manifestanti totalmente depressi, lui facendo la critica della burocrazia, del racket sindacale, chiamando all'autonomia operaia, tutto questo. Quindi avevamo questo tipo di... Voglio dire che Per noi non si trattava di andare a incontrare la gente con un programma, con delle idee già fatte a diffondere. Era come, per fare un'analogia con l'Italia, come un'inchiesta operaia in una certa maniera, però non nel modo sistematico dei quaderni rossi, però in un modo un poco così, andare... Com'è? Sì, sì, forse, meno accademico. Non so, sei tu che hai utilizzato la parola, dire che non era accademico il nostro atteggiamento, difatti. Era questo, per noi era proprio una concezione della politica come una cosa di amicizia. Come, per questo rifiutavamo il concetto della politica come era inteso per i gruppi tradizionali. E poi d'altra parte c'era il problema che per noi era già dagli anni 70 del carcere. E in Francia c'era stata una onda di rivolte nei carceri in 71, dopo 68 c'era lo spirito del 68 che era entrato nei muri. C'era uno dei rivoltosi su un tetto, un giornalista che stava: perché voi ci state rivoltando? Perché è la moda? E che era una bella risposta. E poi in 74, dove la metà dei carceri francesi sono stati bruciati, distrutti, io mi sono ritrovato in carcere 6 mesi dopo, ho conosciuto alcuni di quelli che avevano partecipato a questo e che alcuni avevano pagato il prezzo forte. Si sapeva come si svolgeva la repressione di una rivolta in carcere, nel segreto dei muri, già come si svolgeva per strada, figuratevi nell'isolamento di un carcere. E quindi in 83 nuova onda di rivolta, e sempre con questo... Fuori gente come noi. In 83 c'avevamo un amico che partecipava alla rivolta nel carcere di Fleury-Mérogis, che è il carcere più importante di Francia, vicino alla periferia di Parigi. C'avevamo un amico dentro e ci sentivamo molto impotenti fuori, che possiamo fare? Negli anni 70 c'erano alcuni collettivi di intellettuali o di ex detenuti che parlavano della riforma dei carceri, però negli anni 80 non se ne parlava più. E quindi in 85, appena finita una riunione del nostro gruppo, scoppia una rivolta sempre nel carcere di Fleury-Mérogis a Parigi, e che si estende, che si va a contaminare le altre carceri in diverse città di Francia. E quindi ci siamo detti: questa volta dobbiamo fare qualcosa, non lasciamo la gente dentro al suo isolamento sociale. E si trova che quelli di Fleury-Mérogis avevano fatto uscire un documento con 4 rivendicazioni. Le rivendicazioni erano era un'amnistia, una riduzione di pena generale per tutti, l'abolizione della doppia pena, che era l'espulsione dei detenuti stranieri dopo una volta scontata la pena, l'abolizione del mitar, non lo so come si dice in italiano, il mitar è la cella di castigo dove uno che ha fatto un po' di casino si ritrova solo, senza niente, isolamento. E la quarta, che era l'amnistia per tutti quelli che erano stati condannati per i fatti della rivolta. Quindi e era chiaro che la nostra posizione era l'abolizione totale del carcere, però questa è una cosa, diciamo, una idea. Per realizzare questa idea passiamo per delle lotte più concrete. Quindi Abbiamo deciso di fare alcuni interventi pubblici fuori per appoggiare queste quattro rivendicazioni di Florime Rogis. E non sapevamo che cosa fare, ci è venuta l'idea perché alcuni operai l'avevano fatto un poco 6 mesi prima di bloccare un treno. E c'era questi treni, allora non c'era ancora l'alta velocità, però c'erano treni di lusso con solo prima classe che partivano di Parigi per andare un po' dappertutto in Europa, dove viaggiavano i quadri superiori del capitalismo. Quindi bloccavamo i treni con barricata sulla via ferrata, e spaccavano le vitre, le finestre, come? E buttavano dentro un manifesto che avevamo fatto, poi a pintare sul treno le quattro rivendicazioni dei prigionieri, e questo l'abbiamo fatto parecchie volte. Poi una volta abbiamo bloccato una linea di metropolitana in Parigi, sempre nello stesso modo, sempre scrivendo le rivendicazioni. Poi abbiamo sabotato la produzione dei giornali perché tutta la stampa francese, anche quella di sinistra, sputava sui rivoltosi. E quindi abbiamo sabotato perché avevamo un amico che lavorava dentro come operaio, una tipografia. E quindi abbiamo sabotato la produzione dei giornali in 3 posti, e a Nantes, Marsiglia e Tolosa. Poi a Tolosa abbiamo incendiato un'impresa che faceva lavorare i detenuti. Si sa che lo sfruttamento dei detenuti è una fonte di profitti importante per molte imprese. Per esempio, tutte le imprese automobili francesi facevano lavorare i detenuti di Florime Rogis. E poi abbiamo fatto un piccolo manifesto per spiegare il senso della nostra azione. Vabbè, diciamo che ci sarebbe voluto che ci sia una costellazione di parecchi gruppi a farlo, non solo il nostro gruppo, però... 2 anni dopo a Londra ho incontrato un giovane che era della mia città di Marsiglia, un giovane di origine algerina che era in carcere a Lione e aveva partecipato alla rivolta lì, alla prison Saint-Joseph, che era totalmente stata distrutta. E lui aveva riuscito a scappare dopo, aveva avuto un permesso di uscita e non era tornato, era andato a vivere a Londra, dove l'avevo incontrato e ci siamo ritrovati parecchie volte. E lui ci diceva che per loro sapere che c'era gente come noi a fare un po' di casino fuori, vabbè, riscaldava il cuore, poi dava un poco di incoraggiamento, anche se dicevano rispetto al livello di violenza che c'era in carcere, alla fine era ancora bravo, però già era la prima volta in cui c'era gente fuori a appoggiare quello che succedeva dentro. Per noi era importante, perché anche a livello simbolico era un modo di distruggere i muri. E poi è successo che 6 mesi dopo, in dicembre 85, è successo un evento incredibile. C'è stata la presa d'ostaggio della corte criminale al tribunale di Nantes. 3 persone, di cui uno era un poco conosciuto, 3 delinquenti comuni, 2 passavano in processo per una rapina. E un amico loro, un marocchino che avevano conosciuto in carcere, con chi avevano fatto amicizia, era venuto con pistole e granate e avevano preso in ostaggio tutto il tribunale, anche il jury, come si dice? La giuria, e avevano fatto venire la TV. La TV, e quindi quasi, penso che quasi 1 miliardo di persone nella pianeta ha visto. Io stavo a Londra a questo momento e loro davanti alle camere hanno fatto una denuncia totale della giustizia di classe, del carcere, e tutto questo è stato, e il più bello è che era da un mese appena che nei carceri francesi c'era il diritto ad avere la TV, quindi ha circolato dappertutto. E la cosa per gente come noi era eccezionale, si vedeva soprattutto quello che era un poco il leader del gruppo, Georges Courtois, che stava organizzando proprio con quelli della TV come se fosse un realizzatore di cinema, e si vedeva, mi ricordo bene questa scena dove c'è il presidente del tribunale con uno con la pistola qua, il magistrato tutto bianco, e poi la camera che fa un movimento giratorio sulla giuria e tutta la gente della giuria tipo Madonna, ma perché sono venute qua stamattina, e con Georges Courtois che sta chiedendo signori, che effetto fa di essere venuto stamattina per giudicare la gente e di ritrovarvi in situazione di essere giudicati voi? Era troppo forte, quindi ha fatto un effetto molto forte nei carceri, ma dappertutto, anche i rioni di periferia. E quindi si sono arresi dopo 2 giorni in cambio della promessa dell'espulsione di Abdelkarim Khalki, quello che era intervenuto con il materiale, in un paese arabo della sua scelta. Solo che non l'hanno fatto, quindi lui ha fatto uno sciopero della fame, e quindi noi abbiamo deciso di fare un'azione in appoggio per appoggiare la sua rivendicazione. E siccome l'avevamo già fatto 6 mesi prima, abbiamo paralizzato tutta la metropolitana a Parigi un giorno in solidarietà con lo sciopero della fame di Abdelkarim Khalki. Per dire il vero, non ha servito a un granché, perché non l'hanno espulsato e si è fatto quasi 20 anni di carcere. Però è stato l'inizio di una relazione di amicizia con loro tramite la moglie di Georges Courtois, con chi siamo diventati amici, abbiamo portato il manifesto, poi abbiamo mandato soldi ai 3 in carcere per 20 anni, perché possono mangiare, sapete come sono le cose in carcere. E poi alla fine ci siamo incontrati quando sono usciti di carcere. Poi alla fine, verso 87-88, il governo francese ha annunciato un progetto di costruzione di nuovi carceri per 13.000 posti. 13.000. Già i carceri francesi c'erano a questo momento più o meno 60.000 prigionieri, con un livello di sovraffollamento è incredibile, e per noi chiaramente questi 13.000 posti non avrebbero risolto il problema del sovrappopolamento, ma lo avrebbe solo demultiplicato, perché il sovrappopolamento fa parte proprio della gestione repressiva di questa biopolitica perversa rispetto alla gente carcerata. Quindi abbiamo deciso di sabotare questo progetto, e per 2 anni ci siamo impiegati a incendiare imprese che lavoravano sui cantieri, anche a andare la notte a buttare zucchero nelle betoniere, perché avevamo scoperto che il nemico peggiore del cemento è lo zucchero. Quindi con assegni rubati avevamo preso un casino di zucchero e andavamo la notte a buttare lo zucchero nelle betoniere, e anche a rubare, dove è stato possibile farlo, rubare i piani dei carceri. E quindi alla fine di 90 abbiamo spaccato la faccia a un architetto che aveva fatto un progetto, l'abbiamo intrapolato vicino alla sua officina, l'abbiamo mandato in ospedale, E poi tutte le nostre vittime hanno ricevuto una lettera con il logo di Oscar Gasseros, che riproduceva la foto che c'era sulla rivista nostra, spiegando il perché. E poi abbiamo fatto un mailing. Allora, come ho detto, non c'era internet, quindi abbiamo fatto su 5 o 6, non mi ricordo bene, città dove c'erano costruzioni di carceri. Abbiamo fatto una lettera che è stata mandata a migliaia e migliaia di esemplari, falsificando i sigilli di imprese e recuperando gli indirizzi nell'elenco telefonico. Era stata una cosa molto laboriosa, però l'abbiamo fatto, e c'era una lettera con il logo nostro che diceva: vabbè, sapete che c'è la costruzione di nuova carcere nel territorio del vostro comune, quindi se oggi facciamo circolare il piano generale, vi invitiamo a farlo circolare e fotocopiare al massimo livello per aiutare eventualmente un carcerato che vorrebbe tentare l'evasione, che lui si sa, può sapere. Perché avevamo prima mandato un po' di materiale a un carcerato che voleva fare l'evasione, che conoscevamo, che lui era all'isolamento, e il suo problema è che aveva recuperato un po' di materiale che avevamo mandato con un ball trap al di là del muro, però lui non sapeva proprio dove si trovava, l'avevano trasferito in un altro carcere e non si poteva situire nei muri. Quindi ci siamo detti: vabbè, dobbiamo mettere in circolazione i piani generali, così uno si può più o meno sapere dove si trova e quindi come organizzare la fuga. E questo ha fatto uno scandalo generale in tutta la Francia. Poi anche nella lettera avevamo detto che avevamo buttato zucchero nelle betoniere. Quindi ha fatto proprio uno scandalo considerevole, ne hanno parlato i giornali televisivi, dappertutto. Anche c'era un giornale di matrice autonoma libertaria che si chiamava Mordicus, che aveva pubblicato alcuni documenti. Perché nello stesso tempo avevo fatto un dossier che avevamo fatto circolare partendo da alcune librerie, dove c'era tutte le lettere che avevamo mandato alle nostre vittime, il piano generale, poi tutti i piani più specifici, con le cose, l'elettricità, l'acqua, le fogne, enfin, tutto quello che può servire per uno che vuole scappare. E poi un testo generale restituendo questo con le rivolte che erano state in 85 e anche la cosa del Palazzo di Giustizia di Nantes e tutto questo. E questo giornale avevano pubblicato alcune foglie buone del nostro dossier, quindi dopo un po', cioè in gennaio di 91, c'è stata un'operazione di polizia, hanno beccato 50 persone, tra i quali tutti il collettivo di questo giornale, però alla fine tutti sono usciti fuori perché non c'era nessuno del gruppo nostro. E noi avevamo problemi pesanti con la polizia da sempre, però specialmente dopo il 87. Già noi vivevamo tutti in una situazione di clandestinità, cioè tutti con falsi documenti, e avevamo organizzato parecchie operazioni di truffe. Quindi lì forse devo fare un poco di spiegazioni tecniche. E il nostro modo di operare era, come dicevo, negli anni 70, assegni rubati, e andavamo nelle banche a recuperare soldi, ma è un poco complicato spiegare, però diciamo che negli anni 80 abbiamo fatto un salto qualitativo, andavamo a aprire falsi conti bancari con falsi documenti, e anche avevamo sistemato un posto con materiale per stampare tutti i documenti di cui avevamo bisogno per aprire questi conti bancari. E quindi si trattava di, ognuno apriva i conti bancari con i falsi documenti, buttava un poco di soldi, faceva girare il conto e noi stampavamo tutte le caselle. La Francia era specifica, in Italia non c'era, perché ne parlavamo con alcuni italiani e diceva che non si potrebbe fare. La Francia, per ragioni di controllo fiscale, aveva molto sviluppato dalla fine degli anni 60 l'obbligazione di avere un conto bancario e di usare assegni. Per questo noi negli anni 70 avevamo potuto, rubando gli assegni, recuperare soldi nelle banche. E ogni quaderno di assegni c'aveva una pagina con 10 casere, e quando uno andava a prendere soldi, allora non c'erano le carte come adesso, uno che voleva un poco soldi in effettivo doveva andare alla sua officina di banca a prendere i soldi, però si poteva anche prendere i soldi in altre succursali della banca. E per questo c'erano queste casere e si poteva ritirare 1000 franchi alla settimana, poi partendo dai 78 era 1500, l'82 è passato a 2000. 2000, allora si poteva campare 3-4 mesi con questo. Però ci mettevano un sigillo con la data e con la quantità di soldi. Uno poteva ritirare solo 200 franchi, poteva ancora prendere 800, se uno aveva ritirato 1000 per tutta la settimana era finito. Però quando rubavamo gli assegni avevamo 2 giorni per operare, perché la persona a chi avevamo rubato questo faceva opposizione. Però all'epoca non c'era l'informatica in tempo reale, tutto funzionava con il fax, era un poco laborioso, quindi avevamo 2 giorni. Con Scongaseros invece non rubavamo più, era troppo artigianale, si trattava di aprire e fare funzionare i falsi conti bancari e noi di stampare quelle casere che ogni volta si poteva cambiare. Così con un conto nello spazio di 2 giorni si poteva fare 40, 50, 60 operazioni di come si dice? Di rilievo e fare un bel po' di soldi. E lo facevamo tutti organizzato, cioè tutti sulla la stessa banca, nello stesso momento, e organizzati con uno che faceva l'autista e che si occupava di cambiare le casere, mentre l'altro andava lì alla banca. E poi invece 2 giorni dopo era quello che faceva l'autista che andava in banca col suo conto e l'altro che faceva l'autista e la manipolazione delle casere. E quindi l'abbiamo fatto parecchie volte, quindi così avevamo abbastanza soldi per pagare, per campare, per aiutare amici nostri che stavano proprio in guai, tramite alcuni che stavano in carcere, per pagare le nostre pubblicazioni, anche per esempio questo James Schenkel che ha fatto il suo libro, abbiamo pagato per che sia pubblicato il suo libro che era troppo radicale per gli editori parigini. E quindi erano tutte queste operazioni erano un poco problematiche, casomai avessimo avuto gli sbirri sulla schiena. Quindi le facevamo con proprio molte precauzioni, era un poco, come dire, c'era una disciplina comune, collettiva, per garantirsi la schiena. E fino a 87 tutto è andato liscio come l'olio. Solo che in 87 ci siamo accorti che ci avevamo, uno di noi si è accorto un giorno che c'era un, c'aveva uno sbirro dietro la schiena, poi si è verificato alcuni giorni dopo, poi abbiamo fatto delle trappole per far uscire il lupo dal bosco e abbiamo visto che c'era la polizia dietro di noi. E quindi abbiamo deciso di abbandonare la nostra casa occupata di cui ho parlato prima, che era proprio il quartiere generale, e poco tempo dopo uno di noi si è fatto beccare per la polizia andando al locale in un'altra città vicino a Parigi dove c'era il materiale per stampare. Quindi la polizia era riuscita già a indagare questo. Quello che succede è che c'era un discorso di dire un gruppo come Os Cangaceros, chiaramente un giorno o l'altro con la sua violenza incantatoria, con la sua specialità di andare a partecipare alle lotte sociali per buttare olio sul fuoco, un giorno o l'altro va a passare alla lotta armata. E infatti la polizia politica, come la Digos qua, sperava di trovare armi esplosive. Invece hanno trovato solo materiale di stampa e senza niente documento, cioè niente per giustificare. Solo che l'amico nostro c'aveva documenti falsi su di lui, tutto un gioco di diversi documenti, l'hanno messo in carcere così, e dicendo al giudice, va bene, fra poco comunque li becchiamo tutti, e il loro obiettivo era di fare l'incubazione di associazione a delinquere. Vi spiego, e per truffa alle banche, per esempio, il massimo... Uno si fa arrestare da solo, il massimo che può prendere sono 5 anni. Se ha operato nel quadro di un'associazione, 10 anni, che cambia. E quindi era questo l'obiettivo della polizia, di trovare prove dell'esistenza di questa associazione, che di fatti esisteva. E poi va bene, abbiamo dovuto abbandonare certi posti, certi appartamenti, abbiamo dovuto passare abbastanza tempo partendo dal 87 a fare, come diciamo, operazione di depistaggio, per verificare se non c'era la polizia dietro, tutto questo a mettere le macchine a sollevare le macchine per vedere se non c'era una balisa. Come, una balisa? Una cimice. Una microspia. Una microspia sotto, tutto questo. E partendo dal 87 abbiamo passato molto tempo a questo. E che era un poco pesante, però che alla fine ha funzionato, perché non sono riuscito mai, neanche quando abbiamo fatto lo scandalo dei carceri in 90, non sono mai riuscito a arrestare il gruppo. Invece quello che si era fatto beccare hanno dovuto rilasciarlo dopo 10 mesi, perché non c'era il materiale, le prove per giustificare l'incolpazione per loro la cosa è associazione a delinquere con obiettivo terrorista, perché già c'era questa tematica del terrorismo, cioè quando stavamo bloccando i treni in solidarietà con i prigionieri in rivolta, la stampa diceva sono terrorista delle ferrovie. Terrorista per un'azione che consisteva solo a bloccare, al più peggio a spaccare le vetre del treno e a buttare propaganda dentro. E quindi c'era già questa, come dire, la surenchère. sovraccarico mediatica rispetto a qualsiasi forma di contestazione, di sovversione sociale, era l'inizio. Mi ricordo che avevamo fatto un manifesto all'inizio di 85, erano stati attentati cechi nella metropolitana di Parigi che avevano fatto morti, e c'era stato tutto un discorso del governo su, già per giustificare lo stato di eccezione che si stava annunciando, e noi avevamo fatto un manifesto per denunciare questo. Infatti si è saputo che era una resa dei conti tra i servizi segreti iraniani e i servizi segreti francesi rispetto al programma nucleare non rispettato, cioè delle cose che non c'entravano per niente con la gente comune, però che giustificavano questa retorica sicuritaria e paranoica che da questa epoca ha fatto solo, non si è fermato mai di gonfiarsi. E vabbè, quindi per noi era la situazione alla fine degli anni 80, all'inizio degli anni 90, era un poco pesante, anche se questo scandalo che avevamo fatto rispetto alla costruzione di carcere è stato proprio un successo. E non facevamo più la rivista, avevamo perso molti contatti perché molti amici nostri avevamo dovuto tagliare le relazioni perché loro non abbiano problemi per colpa nostra, perché fino all'87 quando facevamo le cose c'era sempre la gente del gruppo, il gruppo era 12-14 persone più o meno, però sempre tante persone fuori, gente con chi avevamo relazioni di complicità forte, però non che non volevano essere coinvolti sempre nel gruppo o che noi non volevamo coinvolgere di più. E quindi tutta questa gente abbiamo dovuto fermare, abbandonare tutta forma di relazione. E questo era pesante, perché per noi era molto importante, come l'ho spiegato all'inizio, questo fatto di creare in situazioni relazioni di amicizia, di complicità, e dall'87 non si poteva più fare. E quindi dopo un po', dopo alcuni anni, ci mancava un po' l'ossigeno. Si dice così l'ossigeno? L'ho detto bene, l'accento è buono. E poi succedeva anche un'altra cosa, che una di noi, Andrea, che aveva un cancro, aveva deciso di finirla con la vita. E lei aveva seguito un trattamento, una chimioterapia in 84-85, poi ci aveva avuto alcuni anni di remissione, sì. E in 89 di nuovo il cancro si era generalizzato, poi dopo un po' ha deciso di lasciare perdere, aveva rifiutato il trattamento che gli volevano imporre all'ospedale, dicendo vabbè, mo basta, non sono un topo di laboratorio. E quindi è tornato con noi e abbiamo affittato una casa sul mare vicino a Marsiglia, e c'è sempre stato due persone con lei. E lei aveva deciso di andarsene via il giorno in cui non potrebbe più fare una passeggiata fuori, quello che è successo in agosto di 91, quindi ci siamo radunati tutti per salutarla l'ultima volta, poi con un'amica medica che avevano preparato un cocktail di medicina per finirla. C'era stato questo libro in Francia, Suicide mode d'emploi, che era stato vietato. Però noi avevamo un esemplario dove due persone avevano scritto: vabbè, questo mondo tossico incita molta gente a finirla con la vita, quindi almeno che possano farlo senza soffrire inutilmente. E quindi davano delle ricette farmaceutiche per suicidarsi. E questa amica medica si era ispirata di questo. Però nei 8 mesi prima di questo avevamo passato molto tempo con lei a parlare di questo mondo tossico che provocava i cancri, che nello stesso tempo pretendeva curare questa malattia nello stesso modo in cui aveva provocato i cancri. E poi in Francia c'era stato pure la cosa di Chernobyl, la catastrofe di Chernobyl alcuni anni fa. In Francia era stato specialmente vissuto in un modo incredibile, le menzogne del governo francese erano state a un livello di cinismo incredibile, dicendo vabbè, le radiazioni nucleari si sono fermate alla frontiera tedesca, non hanno passato la frontera. E invece nella metà di Francia è stata contaminata e lo è ancora, e sapendo che d'altra parte la Francia è il paese dell'energia nucleare in Europa, che è proprio il monopolio di Stato della produzione di energia. E quindi, sapendo un poco di tutti i cancri che si erano sviluppati in seguito a questo, poi che si sviluppavano nell'universo metropolitano con un livello di inquinamento, poi anche con il malessere che produce la metropoli. Quindi parlavamo di tutto questo e abbiamo detto, perché non faresti una cosa tipo un libro e lo pubblichiamo dopo la tua morte? Ha detto sì, l'ha scritto. Quindi tutte queste discussioni aveva preso delle note, aveva fatto un libro che abbiamo pubblicato in 92, 6 mesi dopo che si sia andata via. Libro che è stato tradotto in inglese, in tedesco, in spagnolo, in italiano, in greco. Era stato pubblicato, era il gruppo attorno di Riccardo d'Este che l'avevano pubblicato a Torino in 93 o 94, credo. E credo che c'è stata una reedizione in Italia, no? In Francia c'è stata una reedizione recentemente, 5 anni fa, per gente che una piccola casa editrice libertaria. E quindi a livello simbolico lei avrebbe voluto che il gruppo, che Oscar Gasseros non si finisce lì, ma a livello simbolico la partenza della nostra amica era qualcosa un poco che anche significava un poco la fine del gruppo. Poi nello stesso tempo avevamo lavorato su un progetto di manifesto, pensavamo di chiudere la cosa con la pubblicazione di un manifesto. E c'era materiale perché ci avevamo scritto delle cose, e in 92 siamo stati 3 a lavorare un po' su questo, a mettere questo in forma, e tutti l'hanno letto, sì, ci sono delle buone cose, intuizione geniale, però alla fine abbiamo deciso di non pubblicarlo. Ci siamo detti, vabbè, non c'è abbastanza cose nuove, non c'è finalmente niente di tanto nuovo rispetto a tutto che già era stato scritto da altre correnti teoriche, non so, situazionisti, anarchici, autonomi. Se per fare un libro di più, vabbè, non vale la pena, e quindi abbiamo deciso di non farlo. Però lo strano è che io ho pubblicato in francese in 2021 un libro più teorico, fa un poco di dimensioni antropologiche e filosofiche, diciamolo così, che si chiama Antimatrix. E totalmente per caso, poco tempo fa, ma 2-3 mesi fa, ho scoperto, facendo un po' di pulizia di casa, ho scoperto questo manoscritto di cui pensavamo che era, che si era, era perso. Questo manoscritto quindi di 92, e a leggerlo, va bene, era scritto in uno stile un poco più rustico, diciamolo così, però mi sono accorto che almeno 5-6 tematiche che avevo sviluppato in Antimatrix c'erano già, che significa che almeno c'era stato un poco di... Sì, avevamo avuto intuizioni, però non le aveva, il quadro, Oscar Gasset non era più il quadro in cui sviluppare questa intuizione. Poi quello che è successo è che abbiamo fermato il gruppo, quindi a questo momento, e già la metà della gente del gruppo era andata a vivere in altri paesi d'Europa. Io a questo momento passavo molto tempo nel sud d'Italia. Chi era andato in Spagna, in Inghilterra, in Germania, e poi ognuno aveva voglia di implicarsi in attività più territorializzate, diciamo. Poi il 94 è successo, il primo gennaio, l'insurrezione zapatista in Messico, e che è stato per noi una bellissima sorpresa. E molti di noi si sono ingaggiati nell'appoggiare di questa ribellione. Uno di noi, per esempio, ha partecipato alla creazione del collettivo zapatista di Barcellona, che è stato uno dei, il primo e forse il più importante d'Europa. Parecchi, io pure sono stato un poco in questo tipo di attività. E per noi era molto importante scoprire questa, per noi era proprio aria pura di scoprire questa dimensione delle lotte indigene con dimensione storica e territoriale, con questa forma di comunalità. E quindi molti di noi dopo si sono articolati a questo. Io per esempio dopo sono vissuto 3 anni in Messico, nello stato di Oaxaca. Anche uno di noi ha partecipato all'insurrezione di Oaxaca in 2006. E poi vabbè, per noi è stato proprio, come dire, l'occasione di rebondir, sai come fa il canguro, di dislocarsi. E va bene. E poi già negli anni 80 si diceva che a Parigi tra i giovani, i ragazzi, c'era un poco di, era un riferimento forte l'esperienza di Oscar Gasseros. E alcuni mi dicevano: dovresti scrivere qualcosa su questo, però va bene, non volevamo scrivere niente. E solo che questi 10 ultimi anni, andando di qua a di là, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, i Gilets jaunes, conoscendo gente ecologista radicale, i Black Bloc, Occupas, sempre a gente, perché io non ne parlavo, nessuno ne parlava, però si sapevano queste cose. Quindi la gente mi dice: oh, Scangassero, tu sei stato, sarebbe bello che tu scrivessi qualcosa per raccontare questa storia. E alla fine, vabbè, facciamolo, se tanta gente della nuova generazione, sarebbe peccato che non ci sia la trasmissione d'esperienza. E, però io non è che mi interessava scrivere da solo una cosa e poi portarla alla casa editrice e basta. Mi interessava che scriverlo in un dialogo, in una discussione con alcuni di questi giovani che erano interessati. E difatti ho incontrato un collettivo a Lione che diciamo gente che avevano 20 anni e partecipavano agli scontri di Genova, il G8. Poi ci sono coinvolti in attività più mediatizzate, tipo gestiscono un locale un poco come questo nel centro di Lione, poi fanno agricoltura in un terreno di 5 ettari all'uscita di Lione in un modo comunitario, fanno delle cose così e anche pubblicano delle cose. Ogni 2 anni pubblicano un libro che gli piace, non è una casa editrice, eh? Sono un po' come noi all'epoca di Oscar Angassero, fanno le cose in funzione dell'amicizia. Uno di loro ha il suo fratello in Giappone, quindi ha avuto contatti con compagnie del Giappone e la loro prima pubblicazione è stato un libro sulla catastrofe di Fukushima, che è stata la peggiore dopo Chernobyl. E quindi un amico comune ci ha presentato a parlare, ma se vuoi fare qualcosa su Scangaseros, no, ci interesserebbe. E quindi c'è stato tutto una relazione così di amicizia, di discussioni, di scambi. Avevo mandato una sinopsis di 20 pagine, ma hanno risposto con 20 pagine di domande, di precisione, e così alla fine ho fatto il libro, l'hanno pubblicato e era alla fine del 24, sì, novembre 24. E sì, la cosa bella è che i librai mi dicono si vende bene e soprattutto sono gente molto giovane che lo comprano, gente di 20 anni, 25 anni, è bello perché alla fine l'ho scritto... anche per l'ho scritto per tutti, però è bello che la gente più giovane si interessa a queste storie di una volta, perché stiamo parlando di cose di 35-40 anni fa. E ecco, i compagni di Tabor hanno deciso di fare la traduzione. Li ringrazio, per me è molto importante essere pubblicato e eventualmente letto in Italia. E devo dire una cosa, è che tutti quelli che hanno partecipato a Scangaseros, alcuni sono morti, c'è Andrea che è morto, però 2 sono morti questi ultimi anni, però tutti quelli che, e quelle che hanno partecipato, nessuno si è rinnegato. Tutti sono rimasti coinvolti in situazioni di dissidenza in diversi posti del mondo. Noi nella nostra generazione abbiamo visto molti di quelli di 68 che si sono ritrovati a fare i quadri superiori nel governo Mitterrand, che sia nella politica, nella cultura, nei mass media. Tante gente che si sono rinnegati, e nelle parti nostre non è successo, tutti siamo rimasti abitati nello stesso spirito di rivolta, di sovversione che era il nostro a questa epoca, anche se ormai siamo molto meno giovani, però lo spirito è sempre questo. Ecco, ho fatto più o meno una presentazione generale, mi avviso che fa quasi un'ora che sto parlando, che nessuno si è addormentato, vedo. Forse ci avevate delle domande, non so, non abbia paura di fare delle domande, ma vediamo. Va bene? Tutti... Sì. Se non hanno mai avuto un infiltrato. È strano perché pure ieri mi hanno fatto la richiesta. La risposta è no. La risposta è no, perché già quando si è fatto Scangasera era gente che si conosceva più o meno da anni. Era più o meno una rete di gente che ci avevano un po' di fiducia. Poi, prima di creare il gruppo, di fare questo pacto, abbiamo fatto un po' di pulizia nelle nostre relazioni e gente che si sembravano un poco seria. E ci siamo accorti anni dopo che in un caso abbiamo fatto bene, perché uno chiaramente anni dopo si è fatto ritornare dalla polizia, però a questo momento lui non sapeva più niente di noi, però si è saputo che delle parti sue lui ha fatto l'infame. È l'unico caso. Siccome eravamo un gruppo abbastanza stretto, era difficile infiltrare, quindi non è mai successo. Poi, vabbè, non ci avevano l'ingenuità di molti militanti che... ci sono. Uno di noi veniva di una casa occupata dell'autonomia parigina che si chiama la Rue Lahire, che erano veramente autonomi duri, e loro avevano avuto un infiltrato. L'hanno saputo anni dopo, cioè uno è arrivato così, faceva parte del gruppo della casa occupata, andava agli scontri, andava a saccheggiare i supermercati con loro, a tirare molotov sul collega della polizia. Però era strano, a alcuni momenti lui spariva, partiva per una settimana, due settimane, non si sapeva dove andava, però tornava. Il punto è che lui non ha mai denunciato, non ha mai fatto cadere in carcere qualcuno di questo collettivo. Infatti lui faceva informazione generale su quello che si svolgeva, che si diceva, che si preparava nell'area dell'autonomia parigina, che a questo momento, alla fine degli anni 70, era molto importante. E poi è sparito, poi loro più o meno questo gruppo si è un po' sciolto, uno di loro è venuto con noi, Oscar Gasseros, che conoscevamo, e lui ha raccontato, questo infiltrato ha raccontato la sua storia in un giornale settimanale che si chiamava Le Nouvel Observateur, con un poco di sinistra, e lui ha raccontato, ma veramente dando informazioni molto precise su, e loro, gli anziani, alcuni anziani di questa casa occupata si sono ritrovati per parlare di questo, sì, vediamo chi era, e lui dava veramente informazioni precise, ma anche alcuni di questa casa occupata avevano fatto una rapina in banca e lui lo sapeva, però non aveva dato, forse aveva dato l'informazione, però non è questo che interessava il Ministero dell'Interno. E quello che interessava era forse da avere una visione, diciamo, più globale di quello che si faceva. Poi lui è sparito, loro erano un po' incazzati, e quindi l'hanno cercato un po', però lui non l'hanno trovato. Meglio per lui, credo. Però diciamo che il problema delle case occupate è che, va bene, qualsiasi poteva entrare, partecipare, quello che era il bello, però quando si trattava di fare delle cose più toste, che ti potevano mandare in galera per molto tempo, era un altro discorso, sì. Però sicuramente, ancora oggi, sicuramente in certe situazioni ci sono infiltrati, chiaramente. No, come dicono questi partiti di sinistra istituzionale che hanno calunniato la gente che a Torino ha affrontato la polizia davanti a Scatasuna, sono infiltrati. Questo, come l'avevano detto a Genova in 2001, ma queste non sono stronzate. Uno o due infiltrati ci sono chiaramente, ma anche nei manifestanti pacifici. È il lavoro della polizia, della politica, di fare informazioni, di essere lì, di vedere chi fa, di dare questo tipo di informazione, ma dire che tale sommossa, tale rivolta sia una roba di infiltrati, questo è proprio schifoso, è una calunnia stalinista. tipicamente. Io lo vedo così. Mi ha colpito quasi il disprezzo con cui si parla di politica, cioè noi non eravamo un gruppo politico, non avevamo niente a che fare, eccetera. Ma avrete avuto una visione a medio-lungo termine? C'era qualcosa che volete raggiungere? Immagino di sì, ma come hai sottolineato anche tu, è buffo sentire che un gruppo che nasce perché rifiuta, come dire, la logica del lavoro, poi le prime battaglie nei primi anni eravate sempre schierati a fianco di chi il lavoro lo stava perdendo ed era un lavoro, no, questa contraddizione, e anche come eravate visti nel panorama generale politico dagli altri gruppi, diciamo, immagino della sinistra extraparlamentare, non sto parlando di quelli istituzionalizzati, ma se eravate magari visti come una spina nel fianco, eravate troppo poco ortodossi in certo senso per essere appoggiati, assimilati. Grazie. Diciamo che c'era ancora alcuni piccoli gruppi affinitari di quello che era stato l'autonomia a Parigi, che sapevano di noi, e alcuni con chi avevamo una relazione, diciamo, di rispetto reciproco. Per quanto si tratta della sinistra istituzionale, comunque tutte le organizzazioni tipo trotskiste o marxiste-leniniste degli anni 70 già non c'erano quasi più, quindi loro, molti dei dirigenti erano riciclati nella gestione socialdemocratica della società, e per quelli che rimanevano non penso che facevano caso di noi, perché infatti eravamo totalmente fuori del loro spazio, eravamo tanto lontani di le nostre modalità di intervento pubblico era talmente differente delle loro che infatti negli anni 70, io per esempio mi ricordo, avevo partecipato in 73, cioè avevo 16 anni, al movimento delle scuole medie, anche se io da un anno già non ero più scolarizzato, però tutti i miei amici lo erano. Era un movimento molto importante contro una legge che prevedeva che appena finito la scuola media si andava a fare il servizio militare. E quindi c'è stato un movimento molto importante che era anche un rifiuto dell'esercito, ma anche che portava anche un rifiuto di istituzione scolare come era, e che ha scappato molto al controllo dei gruppi istituzionalizzati. E fino al punto al quale abbiamo avuto scontri con i servizi d'ordine della Liga Comunista, dei trotskisti, anche dei stalinisti, quando eravamo moltissimi a voler fare casino nelle manifestazioni. A questa epoca sì, loro dicevano di noi che eravamo situazionisti, infatti dicevano di situazionista tutti quelli che ascoltavano rock and roll, che fumavano lo spinello, che facevano casino nelle manifestazioni. Quindi per questo ci siamo interessati davvero ai situazionisti e abbiamo trovato proprio delle cose che ci corrispondevano, anche il fatto che loro avevano rivendicato il rifiuto del lavoro. Però questo negli anni 70, negli anni 80 neanche c'era questo, non si poneva il problema perché loro non c'erano più. C'era ancora il Partito Comunista che era forte, però già non era più quello di una volta. Mi ricordo in 87 c'è stato lo sciopero delle infermiere, come si dice, le donne che lavorano all'ospedale. E loro si erano organizzati in una coordinazione autonoma fuori dei sindacati, e avevano convocato una manifestazione a Parigi e io sono stato con un amico più anziano di me che lui aveva partecipato al 68, aveva partecipato al comitato operai studenti di Saint-Cyr, che era forse l'unica struttura assembleista vera del 68. E arriviamo alla manifestazione e vediamo prima migliaia di donne che manifestano, anche di uomini, perché la maggior parte erano donne, però c'erano anche uomini, di questa coordinazione autonoma, poi un vuoto e dietro tutti i leader della CGT, la CGIL di Francia, che erano dietro, ma anche davanti a loro c'era la Federazione Anarchica, che infatti era un po' un gruppuscolo, però che erano dietro gli scioperanti e davanti alla CGT. E questo amico del 68 diceva una cosa incredibile, vedere i stalinisti dietro la Federazione Anarchica. In 68 non lasciavano entrare nelle manifestazioni sindacali la Federazione Anarchica o quelli che avevano le bandiere nere. Mi diceva, si vede che loro stanno perdendo i loro controlli, il loro potere, e di fatti adesso il Partito Comunista è un gruppuscolo che alle elezioni fanno meno dei loro concorrenti trotskisti. Questo è il cambio d'epoca. Ma se posso aggiungere una cosa su questo, ovviamente io non è che ho partecipato al gruppo, quindi, però parlando dei giorni scorsi, avendo partecipato alla traduzione del libro, una cosa che mi aveva colpito, che mi ha suscitato un po' anche la tua domanda sulla questione della politica, in che termini c'era un rifiuto della politica, secondo me l'ha accennato un po' prima Alessi con l'esempio del corteo operaio a cui erano andati cercando di, cioè preparandosi, organizzandosi per dare man forte in caso gli operai avessero deciso di arrivare allo scontro, cosa che poi non hanno fatto perché c'era appunto l'idea di essere un gruppo di sostegno al livello della lotta che c'era, ma non pensarsi come un'avanguardia che può da sola o dall'esterno sovradeterminare un livello di conflitto. Quindi loro si erano preparati a un livello di conflitto, erano pronti, ma non sarebbero stati loro a provocarlo, proprio perché c'era questa idea di sostenere il livello di scontro che c'è, ma non di essere loro a determinarlo. Questo qui, secondo me, è un buon esempio per capire che cosa si intendeva per il rifiuto della politica, senza per questo rinunciare a delle azioni di, ad esempio c'è un'altra che mi sembra che stasera non hai raccontato, invece di azioni di sostegno ad altre lotte, tipo quello dei lavoratori, lavoratrici delle banche che erano in lotta, e loro hanno deciso di fare delle azioni anche un po' più, diciamo, frizzanti, fantasiose in quel caso, però appunto con l'idea di sostenere, ma lo stesso esempio per la lotta dei carcerati, no? In cui hanno fatto delle azioni sostenendo le rivendicazioni che portavano avanti i carcerati. Penso fosse un po', no? Il rifiuto dell'avanguardia in quel senso, no? Come gruppo che dall'esterno può guidare e determinare delle lotte altrui. Per esempio, accennato alla manifestazione, l'ultima grande manifestazione della siderurgia in 84, e noi eravamo andati all'inizio della manifestazione a parlare con i manifestanti, con gli operai. Io ero andato a parlare con la gente di Fos-sur-Mer, che è un complesso siderurgico vicino a Marsiglia, essendo marsiliese. E quindi loro erano venuti a Parigi in modo quasi hooligan, un poco a fare un poco di vandalismo, a bere senza pagare nei bar. E un quadro sindacale è venuto a mi ha chiesto: ma che cazzo fai qua? Io vengo a parlare con... perché la gente già sono un poco sbronzi, non devi provocare. Io non provoco niente, sono loro che sono così caldi. E io ho detto: tu pensi che siamo venuti qui per provocare scontri? Mo ti dico, se loro vanno allo scontro con la polizia, saremo con loro. Se decidono di non andare allo scontro, non saremo noi a provocare lo scontro. E la loro manifestazione, rispetteremo le loro scelte. È stato questo. Invece, per esempio, a Londra, noi, parecchi di noi, abbiamo partecipato alla battaglia di Wapping in 87. Mi spiego, e il miliardario Rupert Murdoch, che era un gran capitalista della stampa, aveva licenziato tutto il suo personale sindacato e aveva creato una nuova fabbrica che era proprio come un complesso militare, con delle videocamere, con vigili privati, all'inizio dell'East End di Londra. E quindi gli operai licenziati chiamavano a bloccare il giornale della domenica, che in Inghilterra è un'istituzione, il giornale della domenica, pur essendo una pura stronzata, però in un'istituzione. Quindi venivano la gente il sabato sera davanti a questa nuova fabbrica a bloccare l'uscita dei camion con il giornale, e venivano quindi quelli operai licenziati, però c'era anche un casino di gente, c'erano i tifosi del West Ham, che era il club di football dell'East End, c'erano anche minatori disoccupati dagli Yorkshire che venivano, c'era anche Rasta di Brixton, anarcho-punk, c'era anche l'inglese medio che veniva, e c'erano scontri tutta la notte con la polizia che cercava di liberare l'accesso della fabbrica per lasciare passare i camion. Quindi loro convidavano a questo, e noi andavamo lì preparati allo scontro, però non eravamo noi a provocarlo. Era la situazione che comunque oggettivamente non poteva essere altra che questo. Non lo so, per rispondere a tu del disprezzo della politica, sì, che per noi era una forma di vita, era una forma di vita che aveva incidenze politiche, chiaramente. Quando attaccavamo la costruzione di nuove prigioni aveva un significato politico, perché attaccavamo un progetto del governo. Però noi non funzionavamo in modo militante, dello spazio come se la politica fosse qualcosa di separato dalla vita. Perché c'era anche, se possiamo usare queste categorie che noi non usavamo, quella della politica e quella della cultura, c'era anche una dimensione culturale fortissima, con la musica, con il football, con il pugilato, con anche un modo di essere per strada, di andare. E questo era molto importante, anche questo permetteva molti incontri e relazioni di amicizia, che non si trattava solo di parlare di criticare tale decisione di un ministro, era tutto un modo più diffuso, costruire una relazione al mondo che era tutt'altro di quella che permetteva la politica tradizionale, la militanza tradizionale. Non lo so se mi sono spiegato bene. Ma suppongo in Italia ci sono state un po' queste cose, penso specialmente al movimento del 77. No, la faccio da qua, dai. Senti. Allora, io volevo farti una domanda, però innanzitutto volevo farvi complimenti per come avete gestito la situazione di Andrea. È stata una cosa bellissima, ecco, come l'avete portata avanti e come l'avete aiutato, insomma. Ecco, poi tu prima raccontavi appunto dell'attacco alla costruzione di nuove prigioni, e se non ricordo male, io devo aver letto qualcosa passato tempo fa su un costruttore di prigioni che adesso rasenta i muri. prima costruiva, li costruiva, adesso rasente muri. Non so se è lo stesso architetto di cui hai parlato prima. Però rispetto a queste azioni che avete fatto, se hai voglia di raccontare qualcosa di più preciso, ecco, se è possibile. C'era anche un'altra domanda della Vanna. Sì, però la mia domanda è, non so, un po' la pongo come mi viene: come vedresti oggi una organizzazione che ha un successo come l'avete voi oggi, al tempo di oggi? Non so se mi sono spiegata. Non capisco bene. Puoi spiegarlo tu? Cosa vuoi dire? Sì, boh, adesso ho capito. Voi l'avete imbroccata sulla base di una serie di dati storici, sia interni al movimento che relativi all'organizzazione del controllo sociale. Avete colto quel momento di esaurimento della cultura operaia, della presenza addirittura fisica degli operai, per stabilire delle relazioni. Ecco, oggi quale potrebbe essere un equivalente della vostra brillante presenza alla storia? Sì. Quindi vado a rispondere prima forse alla domanda del o alla tua, come volete. Va, prima la tua e poi finisco con aneddote un poco. Okay, prendete appunti che questo è il momento clou. Quindi va bene, non è che tocca a me di dire come la gente oggi si dovrebbe organizzare, solo che io, per essere rimasto coinvolto in situazioni di luce, soprattutto che in Francia i 5 anni prima del Covid abbiamo vissuto un periodo molto, molto dinamico. C'è stato in 2016 il movimento con il corteo di testa, che era una cosa bellissima, alla quale ho anche un po' partecipato. Poi ci sono state delle lotte urbane proprio forti a Marsiglia proprio. Poi c'è stato la ZAD di Notre-Dame des Landes, dove sono andato pure quando la polizia ha attaccato in 2018. Poi ci sono stati gli Gilets jaunes, alla quale ho partecipato pure. Quindi la caratteristica di tutte queste situazioni, che sono lotte più, diciamo, diffuse, che non sono portate per un piccolo gruppo, anche ci sono alcuni gruppi affinitari che intervengono lì dentro. Io ho conosciuto alcuni piccoli gruppi, diciamo, di amici, di così, che facevano parte di quelli che mi hanno detto: devi raccontare la storia di Oscar Gasseros. Piccoli gruppi che hanno questa forma di vita e che intervengono in situazioni, diciamo, un po' forse black bloc, forse tipo alcuni che erano alla ZAD di Notre-Dame des Landes, che è stata una vittoria, tra altre cose. Alcuni che stanno intervenendo con, ci sono gli eventi organizzati del Soulèvement de la Terre. Quindi penso che la situazione è molto diversa. Direi che l'epoca attuale è molto più angosciante, però è molto più stimolante. E io vedo delle dinamiche che neanche avremmo sognato a vedere, che questo negli anni Ottanta, che era un decennio contrarrevoluzionario totalmente in Francia, e a vedere queste dinamiche, anche se si può criticare e si deve criticare sempre, mica siamo qui per fare liturgia, teologia, siamo qua per fare dialettica, quindi si deve criticare, però ci sono delle dinamiche incredibili. Io a vedere 50.000 persone manifestare contro il progetto di aeroporto a Notre-Dame-des-Landes era una cosa incredibile. Poi ho visto le Gilets jaunes, guarda, a vedere gente che venivano di città di cui neanche si parla mai, arrivare a Parigi gente proprio a saccheggiare il rione più borghese, più ricco di Parigi. Era una cosa bellissima, sembrava quasi come la presa della Bastille 1789. Era una cosa proprio bellissima vedere questa auto-organizzazione spontanea su, sai come, sulle rotonde. Era anche bello perché loro non facevano più le passeggiate sindacali sui grandi boulevard di Parigi, no, invece si mettevano lì dove c'era proprio nella periferia metropolitana, dove infatti si svolgono le cose serie, la circolazione della merce, del capitale. Loro si mettevano lì e costruivano una comunità umana. Questa era una cosa totalmente, che per me è proprio qualcosa di bellissimo, di veramente bellissimo, e noi abbiamo partecipato a questo. Molti anziani di Oscar Gassero sono stati in questo movimento dei Gilets Jaunes, quindi la situazione è tutt'altro, e penso che un gruppo come Oscar Gassero, proprio un gruppo così, No, ci sono piccoli gruppi, però che non hanno lo stesso atteggiamento di noi. Noi, per esempio, ti do un esempio, che io vedo oggi molti giovani che fanno delle cose tipo, hanno un mestiere tra i mani, tipo fanno il pane, fanno delle fornai collettivi, o fanno, come si dice, menuisier, lavorano la legna, o il meccanico, o fanno agricoltura. Cioè, anche se vanno a volte come Black Bloc o altri allo scontro, da un'altra parte fanno delle cose, diciamo, più produttive, più creative, che noi non facevamo. Noi l'unica cosa che sapevamo fare era rubare le banche, e alla fine ci siamo accorti che il fatto di avere soldi, vabbè, ti semplifica la vita, però noi avevamo conosciuto prima il fatto di avere, il titolo del libro viene di qua, situazioni in cui avevamo il coltello qua, niente soldi. Era un tag in un rione popolare di Marsiglia dove vivevo in 80, era fuori la grano via Mazziamo. Non so chi l'aveva scritto. Poi 4 anni dopo, al momento in cui si è fatto Oscar Gassero, è successo che un disoccupato che non conoscevamo in una città dell'ovest di Francia, in Bretagna, si era fatto tagliare sussidi per l'amministrazione della disoccupazione. Lui si è incazzato nero, normale, è venuto la notte con una massa e ha distrutto tutta l'officina dell'amministrazione della disoccupazione. Poi si è ritrovato in carcere e noi abbiamo fatto un manifesto di solidarietà con lui e cercavamo il titolo. E io ho pensato a questo tag che avevo visto 4 anni prima nel rione mio a Marsiglia, proprio in una situazione in cui con la mia compagna eravamo proprio, e quindi e questo è il titolo, e questo uno, gente che non si conoscono, quello che aveva fatto quel tag, quello che aveva distrutto l'officina e noi, però c'era questa comunicazione tra proprietari, e era questo. E poi quando ho scritto il libro ho pensato a fare questo titolo, che vabbè. C'era anche la sottodomanda. Poi la domanda allora, io per esempio eravamo in due e siamo andati a vicino Pontoise, cioè nel nord di Parigi, come a 40 chilometri di Parigi, che era ancora la zona periferica, c'era un carcere in costruzione, e abbiamo identificato i camion di un'impresa che lavorava lì, che portava tutto il materiale, anche un'impresa di bâtiment, BTP si dice in francese, di lavori di costruzione edilizia. E vabbè, siamo stati una notte a vedere un poco il posto delle imprese, che era come a 3-4 chilometri, e poi siamo tornati e abbiamo incendiato tutti i camion delle imprese, spaccando il vetro della cabina, mettendo benzina, poi una cosa, un sistema perché il fuoco non prende subito, però un po' più tardi. E dopo abbiamo mandato una lettera, una carta con il nostro logo, dicendo, usando di un linguaggio molto amministrativo, che era molto comico, per dire: vabbè, abbiamo i camion della vostra impresa sono stati identificati sul cantiere del carcere di Osny, che è vicino a Pontoise, e quindi sono stati distrutti per i nostri servizi, e quindi dai nostri servizi, per un linguaggio molto amministrativo, e abbiamo mandato la lettera così. E questo si è fatto parecchie volte. Poi abbiamo beccato questo architetto, e lui ci aveva l'officina vicino alla Piazza della Nazione a Parigi. Siamo rimasti parecchi giorni a sorvegliare il suo camino. Poi un giorno l'abbiamo beccato, arrivava all'officina, uno l'ha dato un pugno qua, è caduto, e l'abbiamo tirato sotto uno sportello e l'abbiamo preso a colpi di piedi nella testa. E no, andiamo lì per fare male, scusa, non è che andiamo per fare una protesta, andiamo per fare male. E poi le abbiamo mandato una carta anche a lui. Però è successo che 3 settimane dopo, uno di noi che era tornato a Parigi per una cosa, era molto, perché per Parigi, per noi era un posto pericoloso, era lì che la polizia ci aveva più o meno identificato. E lui, quindi lui era molto sveglio, e passa, cambia di autobus, Piazza della Nazione, e vede uno con una cosa così, come una benda su, si dice: ma lo conosco questo, ma chi è quello, lo conosco, ma da dove lo conosco? Ma guardi, De Monchy, l'architetta. Meno male che non è andato a parlare, dove ci conosciamo? Però lui 3 settimane dopo era ancora, cioè aveva ancora delle tracce. E va bene, sì, facciamo questo, sia lo lasciamo sia lo picchiamo forte. E guarda che anni dopo ci siamo accorti che avevamo avuto la scelta giusta, perché questo era di un cinismo incredibile. Si aveva preso la parola in un colloquio di architetti, dice, per rivendicare quel che faceva come architetto di carcere, dicendo: vabbè, costruire un carcere comporta sempre una parte di utopia. E un'utopia per un carcere, penso che Charles Fourier e Etienne Cabet si devono svolgere nella tomba, di un cinismo incredibile dire una cosa così. E noi avevamo scritto: in questi muri che tu stai costruendo, gente che valgono meglio di te si vanno a fare picchiare dagli, come si dice, guardiani, i matoni, dalle guardie. Quindi tu mo ci hai avuto un poco un'illustrazione di quello che va a succedere nei questi muri, perché è troppo facile questo caso di dire: ma io faccio solo il mio lavoro, quello che succede non sono cazzi miei. Scusa, la società è così com'è perché la gente fa il suo lavoro, come già diceva Hannah Arendt, come Eichmann faceva il suo lavoro. Quindi io sono contento che abbiamo messo la mano su questo stronzo. Si sarebbe da rifare di nuovo, uno ieri mi ha fatto ma sicuramente che lo faremo, ancora forse più forte. Sì, comunque vabbè, lo dico però adesso. Bon. Vai. Sì. Cioè, se si possono leggere i testi, se ci sono i testi. Ah, allora, perché sì. Tu dicevi che non sapevate, forse tornavate a lavorare la legna o fare il pane, però scrivere scrivevate, mi sembra di capire. Sì. Scrivere scrivevate. Ah, sì, sapevamo fare questo almeno. Infatti in francese sì, c'è un sito molto interessante per tutti quelli che si interessano alla storia della sovversione da 50 anni, che si chiama Archive Autonome, però in francese, e lì si possono trovare. Poi c'è un gruppo di giovani alla fine degli anni 2000 che ha fatto una reedizione della nostra rivista e anche del libro L'incendio millenarista, che l'hanno fatto gratuitamente, bello. E in spagnolo ci sono delle traduzioni, e in italiano lo so che sono stati tradotti, pubblicati i testi che avevano fatto rispetto alla lotta contro i carceri. Sì, questo sì. Però credo che e poi il libro di Andrea, chiaramente, che era stato tradotto poco anni dopo, però altre cose non credo. Sì, cioè, erano apparsi dei pezzi su Il diavolo in corpo, se ricordo bene. E Gratis e Nene avevano fatto questa raccolta della campagna contro le carceri che si intitola Un crimine chiamato libertà. Il libro di cui si è parlato di Andrea è stato pubblicato da 415 e poi ripubblicato da Banalità di Base, e da ultimo L'incendio millenarista, sì. Da Tabor in coedizione con Malatempora. Questo è quello che risulta a me. No, alla fine fa un po' di materiale. Sì, sì. E in archivio abbiamo la riedizione della rivista e credo anche un numero, non tutti e tre, un numero dell'originale ce l'abbiamo. E poi appunto c'è questo grande sito dove è stata digitalizzata praticamente tutta la stampa radicale da Archivio Autonomo, sì, sì. Da 50 anni c'è tutto. No, ma anche di più, va ancora più indietro, sì. L'accesso è semplice, si possono scaricare i PDF di tutte le riviste e di una serie di libri, non solo francesi, perché c'è anche ad esempio una serie di materiali italiani. Ah, sì? Sì, sì, tipo collegamenti, c'è. Un collegamento. Sì, sì, no. Quindi è un sito assolutamente da visitare, perché non solo lo si legge online, ma si può poi scaricare e stampare eventualmente il PDF. E basta, è mancato quasi solo un pezzo, e cioè la colonna sonora di tutta questa vicenda, che però ve la leggete sul libro. C'è una domanda? Prego, vieni. Scusa, non ti avevo visto. No, volevo soltanto chiedere se il libro l'avevi scritto anche, cioè, se posso chiedere se eri riuscito a sentire anche i tuoi vecchi compagni. Se eri riuscito a sentire anche i tuoi vecchi compagni prima della scrittura del libro. Prima avevi detto che l'avevi scritto con un'idea, con anche persone più giovani, ma se i tuoi vecchi compagni li avevi sentiti prima o dopo. Infatti uno di loro, che aveva scritto un articolo per una rivista inglese negli anni 2000, gli ho fatto vedere il manoscritto e l'ha trovato bene, solo mi ha fatto due piccoli punti di correzione, mi ha detto questo no, e non era questo momento, era altro, una cosa proprio. E gli altri l'hanno visto dopo, comunque non siano più associati. E poi il problema è che se iniziavo a vedere l'uno o l'altro, sai, però alla fine tutti quelli del gruppo che l'hanno, tutti l'hanno letto perché l'ho mandato, e tutti l'hanno trovato bene. Solo uno ha trovato che avevo esagerato un po' su di lui, perché sto parlando di lui alla fine, che è uno che sapeva fare un casino di cose con i suoi mani prima di essere nel gruppo, però che dopo a vivere per tanti anni di truffe, di furti, non sapeva più fare niente dei suoi mani. Dicevo, no, non è che ero tanto sveglio, perché ho detto che lui fabbricava mobili, riparava le macchine e... Dicevo, no, io tanto bravo, esagerato, solo l'unica cosa. Però, no, alla fine tutti sono stati contenti. Anche uno, ma che memoria che tiene, io la metà di tutto questo avevo dimenticato. No, comunque, poi ho provato di fare una cosa un poco, come dire... non apologetica, cioè dicendo vabbè, ci saranno questi limiti, questa contraddizione che forse alcuni che all'epoca avevamo sentito, per alcuni che non abbiamo capito più tardi quando il gruppo si era sciolto. Però no, non ho avuto nessuna protesta di alcuni anziani. E che quello amico che l'avevo letto, lui viveva in un altro paese d'Europa dove era stato sollecitato per gente del paese, anche francesi giovani che erano lì, devi scrivere qualcosa sul Scangassero, però lui aveva già fatto un articolo in una rivista inglese anni prima e non voleva tornare su questo. Si è trovato che è passato a casa mia 6 mesi prima, che già il manoscritto l'ha quasi fatto, l'ha letto e mi ha detto ah, sta bene, c'ho due o tre piccoli punti che correzione che ho fatto. E va bene, no, alla fine tutto è andato bene. Grazie. Ah, no, grazie, mi sono dimenticato che c'è anche quello su Merin. Ah sì, lì. Il libro su Messerin, però questo è un libro che ho scritto in 2000. No, ma dico in italiano, c'è un'edizione italiana. Sì, è stato tradotto in italiano questo da un gruppo di anarchici romani. Io stavo in Messico, a questo momento ho contattato, vabbè, perché è un piccolo libro che, perché per noi, per tutti quelli di Oscangassero, Jacques Messerin chiaramente era un eroe, chiaramente. E c'era stato prima Jules Bonneau, poi alla nostra epoca c'era Jacques Messerin. E soprattutto che lui, dopo la sua bellissima evasione della carcere della Santé a Parigi, di cui nessuno si era mai scappato, aveva lottato contro i quartieri di alta sicurezza, che erano proprio di cui si era scappato, che era proprio una macchina per distruggere la gente. E quindi il nostro editore spagnolo, che tra altre cose tradotto e pubblicato molte cose di Oscangassero, che sta traducendo questo libro, mi aveva chiesto una cosa a proposito di Jacques Messerin. Vabbè, per il grande Jacques aveva fatto una cosa un poco... E lui mi ha detto, vabbè, è bello, pensava lui di pubblicare una rivista, finalmente facciamo un libro, però non è bastante per fare un libro, facciamo un libro in due idiomi, spagnolo e francese. E io, essendo internazionalista, facciamolo così. Solo che alla fine è stata una brutta decisione, perché non ha avuto una buona diffusione né in Francia né in Spagna. Solo una rivista di Redskin spagnoli mi ha fatto un articolo, che sembra che i Redskin spagnoli pure loro, a loro piace Jacques Messerin, però vabbè, il libro circola però così, dalla mano alla mano più o meno. Spero di... E quella edizione romana... Non lo so che fine ha fatto, mi hanno mandato alcuni esemplari, però non lo so, io non l'ho visto sulle bancarelle qua in Italia, suppongo che hanno fatto alcune centinaia di esemplari, però Non lo so. Tu credi che si trova su Archivo Autonomo questa traduzione? Non lo so, bisogna verificare. Non credo però. Io l'ho visto indicato, anch'io non l'ho mai avuto ancora in mano. Va bene. Ecco, beh, è l'ora dell'aperitivo. Sì. Se vuoi. Sì, se vuoi. Se vuoi.